bisogno di zuccheri. Ho bisogno di zuccheri. Io so che non sono solo, anche quando sono solo, io so che non sono solo. Chi sei? Ciao, buongiorno, chi sei? Non ho capito. Ah, ciao Roberto Dalghero, scusa, non te l'ho riconosciuto. Qua Roberto da questa parte. Ciao Roberto. Ciao Eugenio, avete sentito? Io non lo sento Dalghero. Non lo so, anche oggi diciamo un po' di difficoltà, Santiago 8 qua sta arrivando, c'è un po' di cuore e altro, ultimamente infatti sto mettendo un'altra antenna per cercare anche di abbassare un po' i segnali di disturbo, sperando che vada un po' meglio. Una pick up AV, sto mettendo una multibanda, fa 0,30, sicuramente non è dedicata per la 27, però magari in certe situazioni può andare anche meglio della mantova di per sé, perché qua arriva tutto, sporcizia, segnali e tutto. Molte volte c'è, arriva la Spagna più forte che questi qua locali. Questa è una PKV all-road, circa 9 metri di antenna, però la metto bassa, senza salire tanto, c'è un terrazzo, ostacoli non ne ho, se ho messo 3 metri di palo, la infilo, la metto a fianco così, e quando ci sono situazioni un po' compromesse, diciamo critiche, provo a commutare con quella e vediamo un pochettino cosa va. Così allo stesso tempo quando devo ascoltare sulle HF c'è un'antenna dedicata. Ok, vabbè. E OJ, dove sei? A casa tua? Ehi, a Robe, a casa, hai tratto un quarto d'ora fa, cioccolata con i biscotti, adesso qui ero in mancanza di zucchero, per forza mangiare, sì, a casa. E mi sembra più forte del solito, sta arrivando la radio perfetta, segnale 9+10. Posso. E l'altro giorno metto solo il furgone, ma furgone di che cosa? Nel camper intendevi? Oh, io ho il furgone, la mia macchina è un furgone, cioè ne ho due macchine, a una la usa mia moglie, e la mia macchina è il furgone, capito? Mi sono voluto proprio comprare un furgone così per provare. Sì, che furgone avevi, Ducati? Sì, uguale, però è l'Expert, il Peugeot. Jumper, Expert e Ducato sono tutti uguali, è la stessa cosa, cambia soltanto la marca, ma il progetto è identico, il gruppo PSA Fiat ha fatto quel progetto di lì. Adesso, qualche anno fa si erano di nuovo bloccati, adesso si devono riunire di nuovo e fare un gruppo anche per le vetture. Io ho l'antenna al baraccino, capito? Ci faccio tutte le mie cose, ci metto dentro roba, biciclette, di tutto. Anche io ne sto trasformando uno, vabbè, da un'officina mobile, quelli della Telecom, ne ho acquistato uno, l'ho tutto trasformato io, è un mezzo speciale, dai, per uso speciale, laboratorio mobile, lì ho fatto qualche modifichina, è un Ducato 2008 aspirato, l'ho preso proprio aspirato perché non ne voglio rompimenti di scatole, meno complicazioni e meno cose da rompersi. Il tuo cos'è che c'è andata? Dovrebbe essere 2000, 2000 turbo. GT di Sadicano è oltre dopo 2000 il tuo? 2003 credo. E allora sarà già GTD sicuramente. Ma quello che c'ha il muso con la griglia separata, che c'ha, sì, 2003 c'ha la griglia grigia davanti. Mi sembra di sì, personalmente. Mi sembra di sì. C'ha i fascioni laterali, cos'è? Passo lungo, passo corto, tetto basso, tetto alto, cos'è? Tetto basso, passo corto. Il mio è passo medio o tetto alto, l'ho preso apposta, l'ho trasformato, era il 2002 il mio, dice, di anno, quel modello proprio che poi dal 2002, metà 2002 è uscito il modello nuovo, l'aggiornamento ma è identico, cambiano solo i fari, il muso, ma la macchina è uguale, ne hanno fatto qualche aggiornamento, la scocca è uguale, io me lo sono trasformato tipo modello diciamo 2003, gli ho messo tutto il muso nuovo, poi gli ho messo tutti i fascioni, tu c'hai già i fascioni laterali, confermi? No, negativo, non è a fascioni. Non mi piacciono quei fascioni, l'ho preso proprio per quello, perché non ha fasciuni, non mi piace il fasciuno, comunque non ne ha. E allora non è modello 2003, è modello come il mio, che io l'ho trasformato. Ah, è del 2003. Ma una domanda, i fari anteriori, i fanalini sono separati o nello stesso corpo del faro? C'è il faro, staccate ci sono le frecce, così voi... Così? Sì, c'è il faro staccato sulle frecce bianche. E come mai, scusa, è immatricolato 2003? Quello è il modello 2002, che l'hanno fatto sino al 2002. Non lo so, 2003. No, non me lo chiede perché io l'ho visto, mi è piaciuto, me l'ha giubilato. Non ho chiesto... Ok, io solo curiosità, quando ho capitato lo volevo solo per curiosità, perché deve essere proprio quelli a cavallo, ma era qualche mezzo fermo e l'hanno rivenduto dopo 2002. E cosa volevo dire? Aiuto, che poi è bianco. Bianco. Sì, è bianco. Il mio era rosso, Telecom, poi se l'aveva fatto questo motociclista, faceva motocross, se l'aveva fatto un aeropacco, una gaggada mondiale, sembrava la macchina della polizia penitenziaria, tutto oscurato, allora l'ho fatto bianco, io me lo sono rifatto tutto bianco. Ok, Roberto, avanti a te. Domani sera è prevista acqua, è anche abbondante, oggi no, diciamo no, fino a domani mattina, diciamo dal pomeriggio è prevista anche di grande intensità l'acqua. Sì, Eugenio, saluti da Roberto D'Alghero, dice ti ascolta a basso, tu proprio non lo prendi per niente, Eugenio. Io l'ascolto basso, ma proprio incomprensibile, sento un borbottio piccolo. Ok, ma dimmi una cosa, mentre tu Roberto a coso, a Angelino ascolti forte, direi, arriva forte, arriva già a 9.10 qua Angelino. Ah, ma neanche a me mi arrivano tutti quanti forti, probabilmente poi, ma mi hai detto tu non hai un'antenna dedicata, c'è cioè una multiband. Ho capito, quando non sono fatte per certi scopi, sono le limitano un pochettino. Mentre come mi ascolti a me di Santiago di radio, Roberto? Radio è 5. Ok. Per cui magari con l'antenna che hai tu rende un pochettino di più in cosa? In ricezione che in trasmissione, magari per le indicazioni. Ok. Angeli, oggi hai lavorato tu? Scusa Angeli, è oggi? Sono tornato, ti ho detto poco fa, sì. E inizio a essere stufo. Oggi hanno sbarcato 500 vetture, non so quanti passeggeri a piedi, da Civitavecchia. Ma non è possibile. Non è possibile, veramente. Va bene, dai. Mi sono ordinato. Le carene anti-vento per le gambe, per la moto. Come mi arrivano ti porto tutto a spruzzare. Ma sono sbarcate 500 macchine da Porto Torres. La Civitavecchia per Porto Torres. Dico, sono venuto da Civitavecchia per Porto Torres, 500 macchine addirittura, il cacchio, questo è un grande problema. Casino, è un casino, no, la gente non si ferma. Non riesce più a arrivare in casa, è un problema, un serio problema. Non so se già ieri ci sono stati altri contagi, sia a Porto Torres che a Sassari, ma troppa gente sta arrivando. Non lo so, speriamo che il caldo ammazzi questo virus, come si presume, però cacchio, se no sono guai grossi. Mi ti ricordi quando la Sardegna era immune all'inizio, poi ne sono arrivato uno da Milano e ha contagiato tutto l'ospedale. Speriamo bene, dai. Ok, Tirrenia, mentre a Genova quante ne sono arrivati? E oggi non c'è più. Vediamo intanto nel frattempo sul 10 se vuole entrare qualcuno, attenzione canale 10, avanti se vuole entrare. Luna, Roberto, riprendi tu il mic. Ma ho sentito una cosa, io viaggio spesso in aereo e abbiamo una continuità territoriale, Roma e coso, e Linate, cioè Milano costa 144 euro andata e ritorno. Speriamo che confermino la tariffa, perché ho sentito i voli all'Italia normali, non so se facciano parte di questo anche quelli di continuità, verranno raddoppiati, perché l'aereo viaggerà al 50% dei passeggeri per questione di distanze e hanno raddoppiato i prezzi. Sono io qua, scusa Robe, mi sono dovuto allontanare veloce, devo fare, mi ha chiamato mia moglie per fare una cosa. Ma tra un po' la Tirrenia di nuovo entra di nuovo statale, e si viaggerà anche bene in nave. Speriamo bene, scusa, non so se ha parlato adesso, Roberto hai parlato perché poi è rientrato Eugenio che non ti ascolta, hai parlato per caso? Stavo dicendo Eugenio, ti ha rilanciato, come si chiama? Mentre da Genova ne è arrivata Genova. Come? Da Genova mi ha detto. Eia, ne è arrivata di gente o poco il movimento? Anche la Tirrenia è sbarcata gente oggi, purtroppo anche la Tirrenia, da Genova. Ma io non capisco sinceramente dove sta andando tutta questa gente, per le seconde case, cos'è? Sono tutte cavolate, Ok, lasciamo un attimino il bianco, vediamo se qualcuno nel frattempo si vuole inserire nella comunicazione. Avanti 10. Niente. Ok, ho conosciuto Riccardino oggi. Riccardino? È venuto con Babbo, e Babbo di vista già ci conoscevamo, era venuto anche l'altro giorno, l'ha portato, gli ho fatto vedere un pochettino di cose, dai, stavamo parlando, è un bravissimo ragazzo, un ragazzo di un'educazione unica, poi fa un piacere conoscerlo, dai, bisogna cercare di stimolarlo un pochettino di più senza spaventarlo però. Non lo dico a me. Già lo so, tu già sei, come me, dai. È in gabbia, no, anche a me mi ha detto che vuole scendere a Porto per conoscere. È un bravo ragazzo, guarda, ti sto dicendo, fa anche tenerezza. Ti rivedi quando sei piccolino che c'è le passioni, tu magari avevi la passione della moto, trovavi uno adulto che magari c'era una bella moto, ti fermavi a parlare, è la stessa cosa qua per la radio, cioè dobbiamo essere, capire anche le situazioni senza fare troppo gli adulti. Io vabbè sono abituato a lavorare con i ragazzi per questioni di sport, per cui c'ho un diverso tipo di approccio, però cavolo, ma anche gli altri devono capire, molte volte diamogli il dovuto spazio, certo anche lui si deve adeguare agli argomenti delle persone più grandi, certi argomenti non può entrare, però diamo anche la possibilità di parlare. Ieri infatti era un po' timidello perché c'era un po' di gente, prima stavamo parlando, poi si è allontanato un attimino, è rientrato e non riusciva a farlo entrare, alla fine ha detto facciamo entrare 5 minuti. Ma infatti va, e poi discussione. Basta sbattersene, entrare, fare casino, ridere, la radio è anche questo, e se no è baranoia, se no diventa una palla, come sto uscendo, quanto sto arrivando, bisogna anche ridere e scherzare, se no... Certo, assolutamente, ma poi un ragazzo sveglio, per l'età che c'ha, è molto sveglio e soprattutto fa delle attività che non sono tutti che possono fare, cioè quando mi stava spiegando il padre cosa fa questo ragazzo, ho detto cavolo, complimenti. Il padre un giorno l'ho incrociato questo fuoristrada, col fuoristrada era un volante nel baracchino. Quello è l'altro, ne ha due di quei fuoristrada, è venuto con uno enorme, con un Dodge, ma cacchio è spaventoso quanto è grande, è enorme, mi pare sia 6.000 di cilindrata, 8 cilindri, una bestia di cose. L'altro è ancora più grosso. Ma il Dodge è quello americano, quello grigio, lo sai grigio? Quello gemellato dietro. No, il gemellato non ce l'ha più, era bianco, il gemellato, però ce lo vedi in giro, era il suo, quello. Lui c'ha il Dodge quello rosso, amaranto, enorme, altissimo, e più c'ha un altro, lo stesso un Dodge, però un po' più lungo, sembra meno appariscente perché è più basso. E poi c'ha una Station Wagon, una Chevrolet, ma sono dei mezzi allucinanti, cacchio, tu devi vedere cosa c'è, e sono sei posti poi, è enorme questa affare. Io l'ho intravisto a Porrottore su un giorno, forse aveva un gommone attaccato, e aveva due antenne di CB attaccate sui fianchi, e non mi ha lasciato indifferente, capito? Ho visto questo pick up con queste due antenne che me lo sono guardato. È quello che c'ha due tubo 2001, quello lì è l'altro, quello che rimane tipo azzurro metallizzato, dai. Ok, vabbè, riprenditela tu e vai tutto. Una domanda, se lo vuoi dire, che radio stai utilizzando? Sì, anche Roberto. Ok. Quelli sono limitati in AM qua su questa banda, tirano come hai detto tu 25 watt, al contrario del 440, che quelli più o meno sempre la stessa potenza, indifferentemente dal luogo di trasmissione e dalla banda. Ok, sono fatti come gli altri lì, come di AESU, c'hanno sempre quella limitazione lì. Comunque diciamo la radio è buona, l'avrei voluto ascoltare magari in condizioni più favorevoli di segnale. Comunque ti ascolto perfettamente. No, sei Santiago 8 39, la radio 5, quasi 5, dai, 4-5 di radio, comprensibilissimo, chiara, pulita, però l'avrei voluto ascoltare questa modulazione, diciamo, con un segnale un po' più forte in modo da cosa. Il microfono cosa stai utilizzando? Sono diventando ma con chi sarà. Aspetta che è andato claro. No, già va bene. Cosa hai detto claro? Non ho capito. Tanto scemo, ciao Eugenio, ciao Robè, ciao Pennello Robè, prova a parlare a 525 Robè, perché sto provando un 7008 da Iaesu ma non ha ricezione, prova a vedere se ti sento, 525 prova Robè. 145 525. Sì, faccio provare a Roberto, prova Robè. Aspetta, manda solo portante, posso mandare? No, ma tu sei vicino, non mi interessa, voglio sentire a distanza un radioamatore. Perché non ha ricezione quella radio, ecco perché, non ha ricezione. Ah, pensavo se si scende a me, vai Roberto per calma, per calma. Parla, dimmi qua se hai parlato. Sì, Robè, fammi una chiamata col mio nominativo, voglio vedere se riceve questa radio, perché se non riceve è bruciata, c'è il finale di ricezione bruciata. Sì, DFB, S0 DFB, non ho problemi. Robè, io sono in regola qua, sono in regola là, non c'è problema. Chiamami. Robè. parlato con te. Non ricevo, ma ho provato anche io. Non ricevo. Aspetta che rispondo a Capri. Prendilo, prego, grazie. No, io ho ascoltato una cosa. Roberto D'Alghero, 525. Ok, pensavo stessi dicendo a me, Claudio, di parlare, io non posso parlare, già lo sai. Ok, chi è che mi ha chiamato? Eugenio o Luca? Non ho capito, ero distratto un attimo. Oh, io stavo dicendo, stavo chiamando io. Ma ho capito, si è piazzata l'antenna, Riccardino. Sì, gli sta arrivando la nuova Mantova che sostituisce la Turbo, si chiama 827, è uguale, le hanno messo 16 radiali più piccoli, anziché averne 8 più lunghi, le hanno messo 16. L'hanno leggermente, dicono, migliorata, ma l'antenna è molto, molto simile come prestazioni, dai. Ok, stasera Rovane, se Dio vuole, in punto l'alta, almeno provo a metterla su e poi il cavo lo passo un altro momento, dai. Voglio vedere con l'altra, abbassando un po' il segnale, se riesco ad ascoltare anche quelli che, come si chiama, che c'è troppo QRM, qua questa antenna prende troppo QRM, magari, e quando ci sono segnali arrivano quelli spagnoli più furti e coprono tutto. Vabbè. Sentiamo tra un po', che mi devo allontanare, devo aiutare la mia moglie, un attimo. Anche io mi sposto un pochettino, dai. Ok, dimmi tutto. No, su un altro apparecchio, su 525. Allora, tieni presente, l'antenna non è un granché, di Santiago 7 qua comunque. Io non so cosa abbia fatto con la radio lì, funzionava bene, poi gli ho detto a me per metterli i punti, i toni dei punti, poi gliel'ho restituita, perché io non l'ho neanche provata né in trasmissione né niente, ho messo solo i punti e basta. L'ha riprovata a casa, secondo me ha bruciato qualcosa, perché c'è un'antenna, arrivava, che c'era attaccata, arrivava a Santiago 3 qua, e arrivava la settimana prima, era 9.40, 7.008 della IAES, ma l'ha provata con un'antenna, infatti mi dispiace se l'ha bruciata, con un'antenna, se la vedi, è in condizioni pietose questa radio, mamma mia, che non è neanche vecchia come tanti, solo che è molto maltrattata, più la stava provando con un'antenna così dentro casa, senza neanche fare, non lo so, c'era il PL che non era efficiente, quello dell'antenna, secondo me ha fatto danno, però strano che non riceva neanche, molto strano questo. No, non va, Robert, ma non va neanche in trasmissione, ecco perché Roberto Quadrato, non va, è bruciata il serraggio, non va, provato, io mi sento, perché praticamente lo sto provando dentro casa, però vedi, non va, c'è l'antenna attaccata, la verticale 5 ottavi sul tetto, non va, assolutamente. Non va neanche in ricezione con la mia, non va, assolutamente non va, è una rottura di balle, quindi viene attacca a Siria Rugabu, lì ha bruciato il finale, ricezione e trasmissione, cioè il finale bruciato di quella radio, non so che cosa abbia combinato, non lo so. Ma che nelle cose, non le upla? Le U funzionano? Una funziona, tutt'uno il finale, cioè c'ha finali separati, non funziona. Non riceve e non trasmette con le mie antenne, no, guarda, dov'è, eccolo qua, ecco, se lo metto vicino, trasmette, però a lunga distanza non trasmette, ti sto chiamando, vabbè, non mi senti? Oh, qua arriva fino a 960, cari, pro. Sì, con questa però, questo è il 275H, adesso provo con l'altra, guarda, mi senti? Giovanni. No, zero, neanche sul mobile, giù. Però mandi la fonda scala sul 275H, ecco perché io ti ho detto, non ti fidare, perché tu sei troppo vicino. Vedi, no. Ma la fonda scala con la mia, ma no, perché siamo vicine, però non c'ha potenza. Ma ho visto l'assorbimento. A 50 volte c'ha pochissimo assorbimento, quindi c'è il finale bruciato. Adesso lo chiamo Giovanni e lo dico, cosa vuole fare? Se la tiene a museo o cosa vuol fare? Oh, ha voluto il numero di Fabrizio, ho detto ma non lo disturbare, cavolo, non voglio mettermi in mezzo, devo mandargli il messaggio a Fabrizio, cioè, mi dispiace a me dare i numeri delle persone, cavolo, ha insistito, dai, me l'ho detto. E vabbè, ma per correttezza tu chiami Fabrizio, dice Fabri, mi sono permesso di dare il tuo numero a Giovanni, se io pare amico di Walter, già lo conosci, perché ha detto che Fabrizio lo conosce, forse è andato con Walter, boh, non lo so, comunque, nel caso ti dovesse chiamare, ti dovrei chiedere informazioni su un FT7008, l'ha provato Claudio, così, giusto provato, io non gli ho educato nulla, non so manco come ha fatto dentro, attaccato l'antenna Claudio, però non va, né in trasmissione, trasmissione e né ricezione. Le può dare uno sguardo o le dico di attaccarselo a Barney? Lo chiamo adesso, dai, datemi 5 minuti di bianco. Io questo che l'ha data a me stamattina giusto per provare, perché lui non c'ha antenna, però con me non c'è né ricezione né trasmissione. Se lo vuole provare lui, io te lo riporto e le dici di passare a prendere in officina, altro non ti posso dire, Roberto. Sono io. Eia. Ciao, come ti ascoltato? Santiago 7, Radio 5. Ehi, capo, questa è quella l'area. Va bene. Santiago 7, Radio 5. Ottimo. Ok, adesso dovresti ascoltarmi molto meglio. E poco fa ero con 3 watt. E adesso si è passato a 9. Ehi, capo, va bene. Sta funzionando. Eia. Va bene, dai, che tanto c'è Radio Giovanni, così si rabbiglia, perché intanto io non tolgo piedi, non so niente, non va, né ricezione né trasmissione. Ci sentiamo dopo, fra, dai, saluto tutti, già entro subito. Eia, va bene, ciao. E al telefono?